Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. L'orologio biologico non fa differenze di genere, così come per le donne, anche per gli uomini, l'età per fare figli è importante. Al congresso della Società Americana di Medicina Riproduttiva è stato presentato un modello per calcolare l'età biologica degli spermatozoi ed evidenziare eventuali alterazioni genetiche. A Obiettivo Salute il professor Andrea Saloni, urologo andrologo presso il Dipartimento di Urologia dell'Università Vita Salute del San Raffaele di Milano, ci spiega come funziona. Lo studio di Jenkins, pubblicato recentemente tra gli abstract del congresso americano della Società della Riproduzione, è estremamente interessante perché gli autori non solo creano, mediante una modalità, se vogliamo, statistica computazionale, un calcolatore che permette oggettivamente di dare un numero alla salute degli spermatozoi definendone l'età, ma è interessante perché l'età degli spermatozoi viene descritta come difforme rispetto all'età cronologica dell'individuo e guarda caso dimostrano con grande interesse un divario di quasi l'8%, il che significa che in realtà se un uomo ha 50 anni pensate di avere degli spermatozoi che sono dell'8% più vecchi. Se volete sapere come mantenere giovani gli spermatozoi, ascoltate l'approfondimento del nostro esperto sulle pagine di Obiettivo Salute. Ne avete già presa una in questo momento quasi senza accorgervene. Avete deciso di ascoltare Radio 24 e state ascoltando Obiettivo Salute. Ottima decisione, ma a volte decidere non è facile e a volte facciamo delle scelte non efficaci. Ma tutto per fortuna c'è rimedio. A Obiettivo Salute il mental coach Roberto Re ci spiega come fare per affrontare al meglio il momento in cui dobbiamo prendere una decisione. Noi siamo la somma totale delle nostre decisioni, grandi o piccole che siano, influenzano costantemente la nostra vita. Quindi dobbiamo allenare il muscolo della decisione, imparare a, quando prendiamo una decisione, numero uno, non metterla in discussione, cioè farsi tutte le domande e porsi tutti i se prima, ma nel momento in cui si decide si va dritti per la propria direzione, non esiste più il condizionale, esiste soltanto, non esiste più il dovrei fare questo, ma diventa un devo fare questo o scelgo di fare questo. L'altra cosa è imparare a prendere decisioni da un punto di partenza di forza e non di debolezza, quindi ogni decisione presa dalla paura, dall'insicurezza è sempre la decisione sbagliata, per cui il muscolo della decisione si allena quotidianamente partendo dalle piccole decisioni di ogni giorno che in realtà influenzano molto spesso ancora di più di quelle grandi che sono evidenti e sappiamo già che sarà un punto di svolta. Per oggi è tutto, la programmazione di Radio 24 prosegue con Melog, io vi aspetto in diretta video con la professoressa Laura Fugazzola per parlare di tiroide. Per oggi è tutto, un saluto da Nicoletta.